Daniele. Olè Marco, ben sentito, buonasera. Ciao Daniele. Ti ho riconosciuto dalla timbrica al fischio, ero di passaggio, mi stavo mettendo via le cose in cucina e stavo per adesso, abbiamo mangiato tardi, stavo per coricarmi un po' per riposare, tanto la giornata è un po' buia, siamo usciti stamattina, non in voglia uscire di sera, quindi faccio non dico un pisolino, un riposino dopo mangiato. Ah, sono entrato solo giusto a salutare, che sto entrando poco e niente. Non dà pogana, ecco. Perfetto Marco, è fatto bene, grazie, con tanti saluti. Io sto facendo un po' di partuglia per a bozza la propagazione. Eia. Sì, nel pomeriggio diciamo non entra quasi mai nessuno, quando entrano entrano verso le 7 di sera o sul 10 o sul 23, capito Daniele? Anche Gio Maria sta un pochino iniziando a modulare di nuovo, mi pare di averlo sentito ieri con Torre Squalo, dai, speriamo che entri più spesso, dai. Leia, una modulazione, una donna, mi pare russa, non so di dove sia, c'è una parlata che sembra dell'est. Va bene Daniele, dai, buon proseguimento di serata, buon tutto, già ci sentiremo in altre occasioni quando entra qualcuno in più, dai. Siamo rimasti pochi, mamma mia, racconti Semmo. Di nuovo Daniele, ciao, buona serata. Va bene Marco, buona serata, buon riposino. E a risentirci a presto in frequenza. Via, ciao. Ciao. Danni! Ehi, Ettore, dimmi, caro! Buonasera anche a te! Buonasera a te, ma come vai di visivi? Hai mai giudicato? Venera, che c'è un nipote da accompagnare! Ma l'ho immaginato, infatti gliel'ho detto a Luca, sicuramente non ti accompagnare nipote! Anche stasera mi, solo che stasera l'ho lasciato 5 minuti, ho già agitato e poi me ne sono tornato qua. Fatti due. Vabbè. Adesso che non ho qui stavo parlando di più. vabbè, cosa vuoi fare? Mi hanno dato il compito di andare alla compagnia. E non solo, Bruno Manzano. Se c'ho l'8 ma con 4 dai noghi. Il volà alle 8 meno 5 lo devo prendere e portarlo a scuola. Vabbè. Non ci sono secondi genitori, dai. E poi i nipoti, figuri più nipoti dei figli, perché quando lavori i figli non te li puoi godere, invece poi quando sei in pensione i nipoti ti li godi. Se non c'è un punto però, che da voi non ve la fai più. Dai, io sei così vecchio. No, che te ne sembra che sono vecchio. Sin dove arrivo. Quello come tutti, oltre non si può andare. Finché Gesù Cristo mi lascia, continuo. Poi vediamo. Vabbè, questa campava. andiamo, dai. Uiuia. Anche perché fu funerali costano troppo, adesso non conviene manco morire. Io sono fatto che non conviene manco morire, cioè se bastano 3-4 mila euro di se bussano, poi è meglio faccio prima che rimane diventa un occolo. E quello è sempre una questione di modo di pensare, perché se uno è religioso, la cremazione, la religione non ha... non praticamente non vuole che si faccia la cremazione. E invece se uno non è religioso, che è ateo può anche fare. Guarda, io sono religioso, però preferisco essere cremato e prendo meno posto. Chiaro che neanche io, Guga, non mi sembra che sia così, se no mi viene un valore. Ah, siete per là, serrato, 30 una mara e 30 un occhio. Certo, fa anni e anni, sino a 30 anni, e poi deve rinnovare, i tuoi figli o i tuoi nipoti la devono rinnovare, e ne chiari per i denari, quindi no, è meglio essere cremato, se vuoi diventare un buco, e stai lì fermo. E poi io questa cremazione non so manco com'è, non si sa se le polveri che tolgono ci sia mischiato legno e tutto l'altro, non ho mai capito come funziona. Allora, la bara viene bruciata ugualmente, non andi senza la bara, entri con la bara dentro, se c'è mischiato con legno e trovi in mezzo, trovi di tutto, trovi anche gli oggetti che ci sono attaccati alla bara. Ascolta, ma stavo dicendo, ma allora non si deve, quando uno crema non c'è lo zinco per proteggere il morto, non c'è quello. No, quello non lo mettono loro. Allora buttava, quando li ho messi a mia nonna e mio zio, 600 euro ha già pagato per rivestire le bare. Cazzo, a chi hanno buccati sotto, gli ho dovuto rivestire e mettergli il zinco, le bare in zinco, i vestiti, e le bare andavano dentro. A me è costato 1200 euro, mi è costato, quindi cosa devi fare? E dentro lo zinco teneva tocco, ce la devono bruciare, va tolto lo zinco. Non glielo mettono più dall'inizio, penso, perché i colori delle bare sono diversi, quelli che devono cremare da quelle normali. Oh, io te lo dico a loro, cosa va cremato o no? E tu dici sì, va cremato, allora ti danno già la bara senza lo zinco. Io cioccolato. è un problema quando arrivi dentro con la bara senza lo zinco, che ne cominciano a indirugare ori che ti cucina. Ma te ne mai se uno si risveglia mentre sta mamma mia? Ah, muori dentro, non ti intende nessuno, non ti sente nessuno lì. Come porcetti finisce. Infatti, come porcetti, solo che diventi polvere diventi. Senti, c'è che temperatura sono qui fuori, Mi pare che siamo a 3.500, mi pare, che siamo a 3.500. Certo, gli anni e noi siamo brustoliti un nesci. Se ti dice che esci in polvere, come facciamo noi? Che noi nascimo, nasce dalla polvere e dalla polvere muori. Ma prima non le facevano queste cose, adesso le stanno facendo, prima non esisteva questa. O la facevano fuori, non lo so, qua non ce n'è. Ma neanche prima c'era lo zinco mio, se vuoi andare sotto terra, oppure dentro all'oculo senza, con la bara solo, senza lo zinco, e venivi lo stesso, rimanevano le ossa, poi anche le ossa se ne andavano. Ma le ossa durano un po' di anni. Io ho visto una volta in quelle che chiamano le tombe dei poveri, c'era la ruspa, stava facendo il fosso e sopra, guarda, mi ha fatto un'impressione, c'erano ossa, il teschio, tutto quanto, stavano scavando e togliendo quelli che c'erano dentro. Sì, ha giudice il burro, ho visto anch'io, quando arrivano per terra, sì. Ma va, vive a stare con la barra sottoterra, per tempo a un anno si mangia legno e tutto, la terra, si mangia, e poi diventano delle cose, i vermi che ti si mangiano a te. Allora noi abbiamo comprato una tomba di famiglia, no? Che c'erano quattro posti, ma lo sai che un posto non abbiamo potuto prendere perché c'era una persona mummificata, si vedevano le vene, tutto quanto, proprio mummificata, e non l'hanno potuto attuare, un posto l'abbiamo perso, l'abbiamo comprata, restaurato tutto qua. Però quella persona non l'hanno potuta attuare perché l'ha mummificata. E quella rimane giù sotto, rimane. Sull'accordo tra Stati Uniti. Che c'hai tre posti, c'hai. Io ne ho già fatto da mia nonna, gli ho tolti e ho dovuto farne altri due. Che poi mio padre non ci ha potuto entrare. Non me l'hanno fatto buonissimo. Prima mi ha detto di sì, ma poi mi ha detto di no. Allora si ha giù buttato sopra, ma di petto si ha giù buttato sopra. Sì, lo zio che ha fatto mettere la moglie. Ma giù mi come ha consulto. Ah, più mi ha detto, Cata mi devi aggiungere, Cata è fatta buoni sopra, mi ha toccato un bagaglio. Può esagerare, hai fatto bene. Boh. Cioè, saprei la senza nulla. Ciao. No, a noi praticamente ce ne avanza uno di posto solo, perché ci sono mia madre e mio padre, ci sono dentro, e mia sorellina che era piccola l'hanno messa sicuramente con mio padre, che era nel luculo, e poi l'abbiamo trasferita lì, e quindi ne avanza uno solo di posto. Sì, vabbè, la pazienza, già per un posto in meno non fa nulla, l'importante è che ci sono entrati, che ci dovevano essere. Io non ho fatto fare, mi è costata 2500 euro, mi è costata, ho fatto rifare tutte le scritture nuove, le cose, il libro, per metterlo più grande, che non vi sa niente, ce ne ho quattro. Non se ne sono approfittata da voi. Sono care queste cose qua. Addirittura noi abbiamo pagato l'agenzia perché non visto dove fare il fosso sotto la tomba. Fanno il fosso, no, per entrarci il morto. E dovevano asfaltare, ci hanno fatto mettere i soldi per asfaltare, non hanno mai asfaltato, è sempre così, non ventilare un bicio, e se uno si muore un bicio si va raggiosso. Niente, andano a vedere, bobo. Ma con un gozo, anche nel mezzo ci può passare perché sprofonda, scende acqua dentro. No, l'hanno cementato, però dovevano metterli, capito, dovevano asfaltare, noi abbiamo pagato per asfaltarlo. Poi misure di sinistra puntini, siccome l'hanno fatto loro questo lavoro qua, per parlare la seppellina, ma... se ne sono tutti, gli avevano parlato loro con l'agenzia, e hanno tutto in catastrofe, dai. Sarebbe meglio di là senza fare il lavoro. Io sono orgoglioso. Oh, dove c'è mia madre? Hai fatto un marciapiede, hanno fatto un pezzo di marciapiede, la parte di su è tutto terreno, speriamo che facciamo un pezzo di marciapiede pure in civi, e se no non andiamo d'accordo. Ma la vera rossa buona, loro pagati dalla vaga, sicuramente stanno facendo uscire tutta la gente dal seminterrato. Ma dove? A Bologna. Oh, aspetta, bobo, nemmo le cose proprio. Ehi, ogni tanto venne una, adesso ho visto, nella zona di Napoli ha fatto un terremoto. Aspetta, anch'io è sempre così, ogni tanto una fusturata radazzi, sempre vicino a Napoli, o al centro di Napoli, Buru. E io ho due amiche di Eboli, che abitano a Eboli, proprio vicino a Napoli, e ogni tanto ha detto che la schicchiata era... Hanno preparato poco tempo adesso, hanno preparato un po' di lettini, sia che vi sia a terra che se deve andare a dormire a farsi compagnia oltre la giornata. Io mia figlia a Bologna, devo telefonare a vedere come ha messo. A me lei abita al secondo piano. Certo, bombo. Ah, ma com'è, di per me migliore anche da... Già non è di coso. Ma stavolta l'hanno fatta uscire perché dice che c'era una perdita di gas, si sentiva e sono andati tutti via dalle case, ci ha portato il necessario, ha portato via la cosa che doveva portare via, ci ha portato in macchina e sono andati al centro ed entra uno spiazzo grande. È un casino quando succedono queste cose, cosa fa? Non deve mai gli ascensori, tutte queste cose qua, si sanno, perché se prende l'ascensore si blocca un casino. No, no, fate andare via dalle case e andare nel piazzale grande che c'è, che a un chilometro da dove abita lì, in macchina, ha dormito in macchina, ha dormito, tutta la notte. Aspetta un attimo che sto scrivendo un messaggio a mia figlia a vedere com'è lì. Io sono qua. Le ho fatto la domanda a vedere com'era il tempo. E sei sempre preoccupato, quando sono fuori sei sempre così. Io mi bisogno. Quindi è la seconda volta che li capiteggia, ma che andai in questa casa. È la voce della terra che c'è. Certo. Io mangiavo e pagato, è andato a pigliarci un caffè, a fare colazione, ma c'è il caffè no, è andato a fare colazione con succo di frutta e ho pigliato una banana, sette gente, c'è da colazione. Adesso io faccio tutti i particolari, mangiano farro. Mangiano queste cose qua, capito? Anche mia figlia è così. Fanno colazioni tipo spremute di arancia, roba così. Vabbè. So che lì il latte non ne può bere. E altra cosa, dove c'è il latte non ne può, mangiare. Che cosa allora? Succo di frutta? O spremuta? O banana? Che mera si mangia, non fatti colazione così. Sì, adesso latte non la bevono più come prima, mamma mi ricordo una bandazza di latte, zuccherato con il pane dentro, oppure biscotti. E prima era diverso, allora non si accontentare più di queste cose, mangiano tutto particolare. Io quando viene qua mia figlia a pranzo sono sempre, guarda, in difficoltà perché mangia cose particolari, tutte verdure, tutte robe così. Questi non è nobili. Se ce lo prepara è da non mangiare, ce lo prepara. Ha detto prepara di rudù, che mamma doveva non te ne sa fa. Quindi, oggi me lo preparo io, se lo preparava Edda. mezzo cavalli, io ho inizio una specie di avvocato, io me ne dicavamo di goccia. Il farro, le lenticchie, quelle piccoline, zucchine, grigliate, tutte queste cose qua. Beh, dai, la crescemmo così in noi, tutta una famiglia. Cos'è che vogliono mangiare sano, perché hanno visto che c'è molto inquinamento e cose, almeno mangiare deve essere sano, perché in effetti non hanno tutti i turti, perché mettono molti conservanti e hanno da mangiare adesso. Non si guarda manco mangiare il pollo, perché se li mettono, li iniettano gli antibiotici per fare l'ingrassa di Purtroppo se lo becchiamo noi sa cosa, anche nel pollo è così, purtroppo. A 72 visto che arrivino, quindi adesso questi cani da arrivi a 73. Sì, ne fai ancora se da 120 mille. Ma se il bambino è meglio andarsene. Che il bambino, se io vedo che c'è il bambino del tranquillo, se il bambino. Pensava, poi bisogna venire ad Anzi come ti nisci. Magari un po' rinchiato, poi sì, ma per il resto. Ti sento il cane borbottare. Ci sono le cani in calore, è per quello che sarò, perché deve scendere, perché ci sono le cani in calore. E quando scendi giù ti tira la portella, c'è che si impazzisce. Io già non intendo di ciò. Cane di ciugare in calore che fai all'ultimo piano. Fai attento quasi. Non lo sente più come prima, però lo senti ancora. Avevo detto che l'avevano castrato. Mia figlia l'ha fatto fare. Quindi ho... Il veterinario mi aveva domandato un pugno. Abbo non mi chieda nulla di questo, perché non so nulla, lo sa mia figlia, lo sa. E Gaffuglio? Come è stato fatta l'operazione? No, io l'avevo fatto al gatto, però a lui no. Al gatto gliel'ho fatta perché era femmina e praticamente si strusciava tutta quando veniva gente, gli attaccava il rubero, che voleva rubare un occhio, almeno un persiano culo. Sì, no, si è arrangiato con il figlio, ha fatto il veterinario, è andato a toccarlo. Bene, per macchina. Ma tra le due date di scuola. Qua è per... Non mi chieda nulla, non so nulla io. Sono venuto solo per fargli il vaccino e basta. Certo. E io lo devo fare a giugno. Ma io faccio quello biennale, per 2 anni. Io quest'anno non lo devo fare, glielo devo fare al prossimo anno. Ma manco ripagno 50 euro. Sono cani, adesso cosa conviene adesso? Farsi l'assicurazione, ti pagano tutte operazioni, cure, tutto. Paghi un tanto all'anno, che non so quanto sia esattamente, ma è poca roba, fai pochissimo. E praticamente sono comprate le cure, i vaccini, tutto. Mi pare che sia 30-40 euro all'anno. Sì, un bel, pensavo di meno. E comunque, guarda che se devi fare operazioni che costano un bel, ti conviene. Reagito a mia figliura, ma sai cosa mi ha rifiuto? Fatelo, assicuralo, hai compreso, tu hai pesi miei. Mi rendi due, vabbè, come ti sei bussato tu. Reagito, vai vabbè, hai pesi miei. Che ne va, che cosa? Ha già lasciato una ghida così, la mamma da dove era, allora già intervenisci. Certo. E perché è malato? No, quando ha avuto il problema del coso, questa cosa che gli è uscita sopra alla schiena, veloce la reazione e diversificare, ha mandato in app a farlo controllare e non era nulla, ha mandato delle pastiglie via da voi, ha già mandato le crocchette e le sanato subito, le sanato erano le crocchette, no? Allora, le crocchette erano, infatti non bisogna che andare più a comprare, io sto comprando quelle che mi hai detto tu a Aerospin, sto prendendo quelle piccoline piccoline e queste qua, queste altre, ma ti ha giubilato le crocchette subito a sanato. A me quello lì me l'ha consigliato un'amica che c'ha praticamente una volontaria di quelle che prendono i cani eccetera, e mi ha detto che c'erano dei cani che stavano sempre a diarrea, gli ha cambiato con quelli di uno spin, gli ha cambiato le crocchette, le ha prese da uno spin, dice diarrea non ne hanno più, da quando io gli ho dato quelle crocchette stanno bene. Infatti, con quelle crocchette lì ho visto che capo a me mi ci ha fatto della crosta, invece va tranquillo, già nato e tutto. E la scatoletta che gli sto mettendo in mezzo, gliela sto facendo finire, in due giorni gliela faccio finire. Ma io sarei se baracchi di forza. A parte dice Bisè. No, quasi. Buonasera. Perché lo dobbiamo spegnere? Perché c'è entrato tu. Perché c'è Tole che lo vedo sul canale 5, lo vedo. L'altro giorno ti ho chiamato, non mi ha rincuso, cosa rivedo? Era funerale, cosa stavo facendo? Ha un funerale? È morto mio fratello. Ma davvero? La secondo gli altri, di che cosa? Infatti. Giovane. 57 anni. Non ci credo, va. Non ci credo. Oli, per carità. Un mondo di merda siamo. Siamo di passaggio, Manuel. Siamo di passaggio. Io ho pensato che magari stavi lavorando, che non potevi rispondere, ma non insisto. No, no, magari che ero lavorando. Tutta una cagosa lì. Dopo. L'ha sposato? L'ha sposato, si è sposato da tanto, c'è un figlio di 37 anni. È più grande di te? Sì, lui, chi? Mio fratello. Eh sì, 57 anni, io sono più piccolo. Cazzo, qua, non mi grido. Quello che faceva la guardia giurata, mi pare, vero? No, quello faceva il carrozzere da Lintas. Ho capito. E magari lo conosco più, perché da lì qualche volta sono andato. Il carrozzere fa fabbricatore, carrozzere, stuccatura, tutto quanto. Condogliate, vabbè, che ti devo dire, non ci sono parole. Infatti, quando hanno chiamato a me, che la casa, fa guarda che non rispondo al tuo fratello, sto sempre chiamando da domenica. La domenica sempre chiamando e non rispondeva, alla fine ha chiamato pure la sera e non rispondeva neanche. Poi alla fine abbiamo chiamato i pompieri perché la porta era chiusa a parte dentro e non si riusciva ad entrare. Abbiamo chiamato i pompieri, hanno saltato dal giardino e l'hanno trovato lì nel letto. E lui si è sentito male e si è coricato probabilmente. Lui si è coricato ma neanche a conto se no, secondo me, perché era bello tranquillo. Vabbè, purtroppo, se vive da solo, quando vivi solo ti possono succedere queste cose, capito? Magari se sei con qualche altra persona riesce a aiutarti a chiamare i soccorsi, eccetera. Sì, ma non è così, già, perché anche se c'era stata un'altra persona non te ne è neanche accorta, perché se una morte così che muori neanche te ne accorgi. Io con la tua se ne avevo preso uno, a parte gli scherzi, ne avevo preso uno e ci ha aperto la moglie in vestaglia ancora in disabile sotto. È inutile che mi dica pescherie, ha avuto un infarto mentre stavo facendo la morte. Cazzo, figurati, storia. Vabbè, dai, vi lascio proseguire il vostro discorso, scusate se mi sono intromesso, che stanotte devo andare anche a lavorare, passato altro, solo due giorni, ne ha altro e basta. Ui. E te ne aspettavo 5 di giorno? No, in teoria 3, però tanto a stare a casa non mi va nulla, l'importante è che c'era il funerale e basta. Ho fatto due giorni e basta, inutile sto a casa, dopo mi viene di più l'ansia, a meno così al lavoro svia un po', in modo di dire, dai, perché a pensare ci pensi sempre. Io ho visto che tu hai messo qualcosa su Facebook, ma pensavo fosse un tuo amico, capito? No, Antonio Rollai, sì, mio amico, sono Rollai. Vabbè, dai, riprendete voi, dai, vi ascolto già, dai, fai entrare a Toro. Ehi, alla mamma, dai, magari ci sentiamo questi giorni, avanti Toro. Ciao Manuel, condoglianze, a risentirci, a presto, ok? Sì, grazie a tutti e due, dai. Sentiamo. E così Gian, oggi ci sei, domani non ci sa. Era anche giovane, Purtroppo siamo così. E io ieri non ero di funerale qua. È morta una mia parente stesso. Anche se era di lontano. È stato per omicidio volontario il vigilante che a Roma. Purtroppo. Un aveva una malattia, un tumore al collo. E se n'è andata, in 6 mesi se n'è andata. E ma questi vaccini che ci hanno fatto, se la faccio da aspetto adesso, capito? Questi vaccini di merda che ci hanno fatto, ci hanno iniettato merda dentro. E quei vaccini lì, caro dobbiamo fare, che non lo dobbiamo fare, ma noi non ne dobbiamo fare, ecco cosa è. Aveva la ragione non vaccino, aveva fatto me che non hanno fatto, dice che non hanno fatto, sono di tutti me. E infatti, se non l'hanno fatto, casiano in dottore. Purtroppo, sono impegnato in giro uno. E poi non mi è morto un amico da poco che cantava dove cantavo io. E praticamente il fratello, lo viveva con il fratello, perché era separato. E il fratello è uscito, quando è ritornato l'ha trovato morto in terra. Certo, oh, vabbè, l'infarto e questa cosa dipende dal cuore, cioè le vene, le arterie ostruite, ecco cosa è. Ma ti dà una settimana di tempo, ti dammi, te ne accorgi, ecco cosa è. Lui diceva sempre di essere stanco, andava a pulire, già va a pigliare le sigarette e sta tornando subito. Andava a piacere le sigarette e diceva, cazzo, quanto sono stanco in questo periodo, sempre stanco, sempre stanco. Ma una settimana, ti do una settimana di tempo e ti sta avvisando. Tu devi andare a farti controllare subito, o andare al pronto soccorso e farti visitare. E poi te le aprono le arterie. Lo so. Fanno l'angioplastica e ti mettono un palloncino, te le gonfiano, te le allargano. Però non è quello il problema è che a volte ti vengono quegli infarti proprio che di colpo ci rimani, non ti avvisa nulla. Per dire, un ragazzo giocando nella palestra che c'era lì dove va la palestra senior, le guardie giurate, eccetera, lì via Pulito. Sì, quella palestra lì, questo ragazzo si allenava sempre, faceva visite e cose, perché lui praticamente faceva pallacanestro però a livelli, capito? Quindi era sempre controllato, faceva visite. Di colpo facendo allenamento si è accasciato, siamo andati noi con l'ambulanza, l'abbiamo massaggiato per due volte, si è ripreso, poi è arrivata l'ambulanza con il medico a bordo, è arrivato il medico, ci ha dato il cambio, l'abbiamo dato ossigeno, tutto qua. Beh, c'è andato il cambio, sembrava che si stesse riprendendo, invece poi non ce l'ha fatta, se ne è morto così. No, è una cosa proprio caldante, un infarto è terribile. Iuia, bisogna stare attenti alle cose. Chissà. Io lo temo, io ogni volta che mi vengono dolori intercostali, roba del genere, l'infarto mi viene, mi fa male male il braccio, cose del genere, perché io conosco tutti i sintomi che dà, ti può venire anche mal di pancia, lo sai. Quello, è quello anche, a me me l'ha fatto una crisi, un mal di pancia, agli qua, io che trovo in bagno agli qua, che sia l'ultimo, poi pochi dopo, invece, vedi che non me ne sono bisogno agli toccate che andiamo, andiamo, bubu. Che tanto che ci rubiamo il gaggio inteso, che sta zona. Certo, Giulia, certo che andiamo, sai cos'è, le fave sono brutte. Per carità. Ma sai cos'è, quando mangi fave, e chi so di chi magari chi non so cucinare per me, ti fai dire chi sei fitto. E lo fai giuro. A me piace il fagiolo, a usare, che a me piace, lo mangio volentieri. Ma ti fa aria, capito, ti fa a scurrirsi a tosse. Specialmente se devi su un buzzinoso, mi ho rubato tu quella cartofa, ui. Quello serve per purificarti, quello lì, se non mangi quello stai male, perché dopo l'indomani ti fa venire un bel d'aria, ti fa venire. Provare l'aria. Aspetta un secondo, che chiamo, forse già lo sa. Me devo aspettare? No, resta tranquillo, già lo faccio dopo, devo chiamare un amico. E allora già andiamo bene. Certo. Ui. Certo, prima entrava un obbediente del coso. Allora siamo già prima, o in lui, o in tre. Ma mai? Sta scemando questa frequenza. Certo, la Fadi, va chiamato un amico da continente, dalla base di Genova, ha detto che mi intendia, però che non intendia mai nulla, ho detto, magari dalla parte tua c'è la propagazione, dalla parte mia non ce n'è. Ha detto, ciao mamma, la prossima volta. Sì, succede, anche a me è successo che magari sentivo anche tipo la Spagna, la Francia, chiamavo e non rispondevano, o che non ti vogliono rispondere, oppure che magari non c'è propagazione per quella zona, io ce l'ho per loro, no? Io li sentivo forte e magari non mi sentivano, no? Può succedere. E perché quella propagazione strana, anche la propagazione ha cambiato, prima anzi c'era stata di quella propagazione che non può dire regalare attivamente. Tu ho parlato anche con Londra, figura. Sì, purtroppo è così. Aspetta un attimo già, che mi ha chiamato la signora. Iuia, andiamo e andiamo, ga. Per carità. Non lo so, boh. Così, pronta mani. Oh, stiamo facendo con la friggitrice d'aria. Ho detto di metterla a meno un quarto, così le cose da poi rimangono in Trento, andiamo male. E io gli ho fatto i sofficini, ma belli croccanti, buonissimi. No, a me me l'hanno regalata, io non avevo nessuna intenzione di comprarla, me l'hanno regalata. E niente, gente di famiglia me l'ha regalata e adesso la sto usando, sto cominciando a fare patatine, non è grande, ma per una persona va bene. Certo, io me ne faccio sempre i patatini io. quando mi cucino le pizze a casa me le metto con i battatini, quindi me le metto un po' e poi già quadrato al forno e mi faccio le battatini. Che hanno andato gli allegri con le pizze, con le patatine te ne buone nel bucarito. E io invece me ne pongo un bel nella pizza. Io ho trovato una cosa buonissima, congelata però è buonissima. E praticamente sono patate con pollo fatte in una certa maniera. Il pollo ha il sapore del pollo arrosto. Ma buoni veramente, le condite bene, tu le metti nella friggitrice e in 2 secondi sono pronte. Aspetta, come si chiama? Nominamento, perché si chiama vabbè, già ho capito, sì. Le comprate anch'io quelle. Oh, buone, no? Se uno non la vuole cucinare, 5 minuti si fa di tutto. Metti il piatto in plastica, ti rilappa. No, ogni tanto me le faccio io. Ma bisogna invece non va a cucinarmi le cose congelate. Oggi tu vabbè, io me la mangio io, non ti preoccupare. Se rimane in freezer, che non ha giocato, me ne mongo. Calma, calma. E allora, quindi dopo se ne va un viaggio di regali in calore passandomi. E più sei tranquillizzata adesso, sei con il cacco. Vuol dire che la visita loro lo sentono parecchio, lo sentono, ma com'è gli dà di sopra gana in calore a sedere la raga. Ma lui è proprio qua, è proprio voglioso. Se io vado ad alzarmi mi si attacca la gamba. Non mi dici, va già bene tu, io mi raccontelli. Ah, lui è. E tanto gli hanno comprendi, è molto intelligente. Io quando lo pulisco gli dico dammi la zappa di dietro, mi alza la zappa di dietro, dammi quella di davanti, mi dà quella di davanti. Capisce tutto, il mio capisce tutto. Il laido. Allora, ma vai bene, ma tu che sai che adesso che fa vedere il mutuendo. Molta gente dice che cane non capiscono, io già non capiscono, sì. Quando dico andiamo giù, alza la rece e gira la testa. Certo, se lo capiscono. Altro che se non mi vede che sono incazzato, è coso. Se n'anda. Oddio, mettete lì, c'è il biglio golpi. Oh, yeah. Amico, su Facebook, qual è il film che ti è piaciuto di più in assoluto? Cosa hanno messo? Qual è il film che mi è piaciuto di più in assoluto? Io ho messo La vita è bella, è troppo bello quel film. Hai visto quello con Benigni? Sì. Oh, già. Oh. Ma i gamberetti non li vedi? Cazzo, io stamattina ne ho visto tutte e tre, li ho visti. Questi non li ho mai visti, probabilmente si sono rimaniati, ma è mio, adesso lo sto riempendo di altra roba, li ho messo in butti, ne ho 4 adesso di butti, ho messo i corridoras, adesso è di lusso. Quei gabinetti lì adesso mi pare ne ordino un altro bel po', ma ne ordino una 20 e poi me li metto dentro, vediamo un po' se durano. Però mi ha detto che più grandi di tanto non si fanno. Quello che tu mi hai mandato non era di quelli, te l'hai comprato a parte. Andiamo e andiamo, cate. Ciao Lu. No, quelli lì sono cose a parte, quelli che abbiamo preso. Se non è colorato quello che mi hai mandato, è trasparente. Ma cosa trasparente? Boh, io lo vedo trasparente, da lui un bel mano, quelli lì grandi non si fanno, massimo ha detto 3 cm, 2 cm e mezzo, 3 cm, io ho parlato con l'allevatore. Cazzo, me l'hai mandato, me l'hai dati tu, le prese le ho ordinate tu, non è che l'hai giubilato altri. Vabbè, allora gli hai dato qualche cosa e li ha fatti ingrossare. Luca, ciao, buonasera. Via. Vabbè, noi provata l'hai. Nulla da fare, nulla da fare. Ma lo sai che l'ho portato poi dopo dove mi sistemano la radio, quelle antiche. Sono i LED, sono. Ma se non si sente l'audio, ma fa a dire che sono i LED? Ma chiamata ha detto che sono i letti bruciati. Ma scusa, ma se si spegne? L'audio si sente quando tu lo stai usando, no? Allora, gliel'ho portato là, era acceso, dopo un po' si è spento e l'ha visto. Poi mi ha chiamato dopo un paio d'ore, lui, e fa, Manuel, sono i letti bruciati, perché sono quelli, non quelli come quelli che hai messo tu, sono diversi. Ho capito, allora, tu lo sistemi? Ma non so ciò, panelisti. Sono le lampade, non sono led. Ciao, dottore. Sono le lampade, Emanuele, non led. Sì, le lampade, sì, le lampade. E le ordinate. Allora trovo sistemi? Sì. Ho capito. E quanto? 90 euro mi prende. A me, se no è 120 per noi agli altri clienti. Sì, ma sappi che è anche la scheda mezzo bruciata, Allora, io ho notato sotto la scheda che è nerita, diciamo. C'erano qualche saldatura fatta male, io te le ho rifatte. Perché molte volte succede anche per quello che non funziona poi la TV. E adesso tanto già lo guardano loro c'hanno, cazzo non è, loro già ce li hanno gli strumenti. Già sono bravi, ti ho detto, mi sistemano le vuole radio a valvola a me. Ma mi sembra strano che siano i led. Non accende proprio. Sono cazzate quello che ti ha detto. Non lo so, comunque alla fine dice che li ha ordinati, che li ordinava. Boh. Non ero primo che ha conto. Se fossero stati led non accende, tranquillo e sereno. Perché se un led o una lampada va a farsi benedire, lavorano in coppia, capito? Sono botticellate, come lo vuoi chiamare. Se bucia un led si spegne tutto il televisore, facciamo solo i led. Vabbè, là. Manuel, vedi tu. 90 euro mi pare un po' che è troppo. Cazzo, dici tu che hai già da giamba la scheda, 31 tu mi hai detto che no. Cazzo, buono. No, io adesso gliel'ho portato per vedere. Perché se l'ha spento. Gliel'ho portato a questo qua e l'ha attaccato. E si è riacceso. Poi mi fa lascialo qua che poi vediamo. E mi ha richiamato che si era spento, l'ha aperto, che dice che erano questi OLED o le lampade, adesso non mi ricordo bene, che sono partite quelli lì, è per quello che fa quel problema, che si spegne e dopo un po' si riaccende quando lo fa riposare. Ma ho capito io. Ripetitore! Io. Beh, così. Vabbè, dai ragazzi, io vi saluto. Non apriamo i buoi battigli. Ci risentiamo alle prossime. Ciao Luca, ciao Gianni, ciao Emanuele, statemi bene, alle prossime, a risentirci. Magari domani, chissà, boh. Ci risentiamo. Ehi, ciao tu, buona serata, dai, buona carica quando la fai. A domani. Avanti, bravo. Ciao a te, buona serata con tutto, dai, ce la riascoltiamo, vai tu. Ciao a te, alla prossima. Ragazzi, sono da qui. Ti devo andare pure a trovare, mamma mia. Aspetta, no, io alle 3:30, volevo bisogno. Che avanti, volevo entrare. Siete sopra modulati. Ragazzi, mi ricevete? Ciao ragazzi. Chi è avanti? Siete sopra modulati, torna. Sentirvi? Con chi, Manuel? Con Gianni, non siamo per minuto che hanno visto i impari. Sì, ma con chi? Io non so adesso, tu e Gianni. Ho già. No, sto trasmettendo la foto. Cazzo, va a vedere che fa vedere Gianni. Decidetevi che arrivi a vedere. Vai, Gianni. Ehi, ho capito che sei da Porto Toro, se ti ascoltavo con un Santiago 7 o una radio di 4, la stazione doppio rumbo di Sassari, avanti. No, non ti ho copiato, non ti ho copiato bene, puoi ripetere per favore? Ho detto, con un Santiago di 7 o una radio di 4 stai arrivando, è la stazione doppio rumbo di Sassari, sei da Rino? Esatto, sono io, confermo. Cavallino, ti ho visto su Facebook in quel forum che c'è, se ti ricordi ho messo doppio rum di Sassari, sono io. Ah sì, mi ricordo bene, io è da qualche giorno che sono passato ai CD e infatti volevo provare a fare qualche collegamento, ho fatto qualche prova con la radio e tutto trovano davvero bene. Sono in compagnia di Luca e di Emanuele, ma per chi vuoi. Loro da dove trasmettono? Da Sassari ugualmente. Sì, a me non mi ascolta. Ciao. Beh, allora già io lo sento, ma lo sento basso. La radio è uno qua. Ci abbiamo provato ieri, ma non riesco a tirarlo fuori, capito? È basso. Lui sicuramente mi ascolta bene. Volendo posso anche migliorare, non c'è problema. Esatto, io lo sento bene, mi arriva in FSS addirittura, lo copio bene, però lui peccato non mi riceve. Se riusciamo a modulare in FM riesco ad avere qualche parte più di trasmissione. Da che dove sei modulato di Porto Torres? Guarda, all'ingresso di Porto Torres più o meno dove c'è la concessionaria Fiat, diciamo. Non so se ce l'hai presente la zona. A Puglia, ci ho lavorato 38 anni a Porto Torres. Allora la conosci bene, la conosci bene sì. Se tu conosci Granai magari conosci anche a me. Certo, guarda, a fare la spesa, ci sono qui soldi, quindi sicuramente ti conoscerò. Guarda se mi ascolti meglio, Cla. Ah, Danilo, scusa, no Cla, Danilo, bene mi ascolti, meglio? È più basso tu. Mi stai arrivando in S9 addirittura, ti sento benissimo, non so se tu mi ricevi bene. Come più basso? L'ho agganciato, Manuel. Ma la modulazione è più... non è squillante. E così è squillante? Come prima? Così va benissimo. Quando agganci ti fa la voce fine, è più bassa dopo la modulazione. Comunque, Danilo, mi ascolti bene, meglio? Mi ascolti bene a Porto Torres? Sì, guarda, mi arrivi perfetto davvero. Ah, ok, tu sei un po' basso in radio, dovresti mettere un aiutino lì magari, un 100 watt, allora sì che arrivi bene, ma che antenna stai usando? Guarda, adesso sono su barra mobile e sto uscendo con 8 watt praticamente, quindi dai, è un miracolo che ti senti. Ah, ok, c'è l'antenna sulla capota magnetica? Esatto, però se vuoi in FM riesco a uscire con 15 watt, quindi qualcosa in più. E che antenna hai se posso? Certo, una Kirio ML145. Qua se vuoi fare un affare, fammelo sapere, ti vendo la PLC1000, che forse è meglio di quella. Sicuramente sì, però guarda, ho preso una Boomer anche della Kirio, sempre sta aspettando, perché purtroppo per questioni di spazio più che una Boomerang non posso mettere, quindi mi allestisco poi la base fissa. Ah, ho capito, anda bene, dai. Tu non lo senti, Manuè? Dopo 2001 nuova vendita. Cosa hai detto già? Che io ho la Turbo 2001 mai usata in vendita, 50 euro invece che 70 come costa, nuova, mai usata. Io do, questa qua è nuova, due PLC1000, base magnetica con cavo, 70 euro. Ormai non è brillante da nessuno. Siete sempre su barra fissa? Sì, noi sì, ma ce l'ho anche barra mobile io. No, la posso mettere sopra la capota che la mia c'ha il tetto già apribile in vetro. A te la metti. Hai qualche problema. Una cosa, Dani? Mi ha spiegato che esiste l'antenna della Midland che si attacca al vetro. Sì, ci sono quelle che si attaccano al vetro pure, a ben cosa sono. E quelle antenne qui, non so, magari si sbaglio e vanno decisamente bene. Allora io vi saluto che devo portare giù il cane. Salutoni a tutti. Ciao Danilo, ciao Luca, ciao anche a te Emanuele, ci sentiamo, dai, buona serata a tutti. Oh già, aspetta, chiedo anche io, fa un po', dai, chiedo anche io. Ascolta, hai preso altri pesci, allora so perché. Adesso che questo canale c'è movimento, ci sentiremo più spesso, mi fa davvero piacere. Sì, senti, dopo le 7 qua c'è quasi sempre gente, dai. Ma noi sì, ho preso altri pesci, ti ho detto Corrinoras, Mutia e basta. Ma me li prendo piano piano, non me li prendo più tutti una volta. Ma la passione del Veneto. Tu me ne puoi c'è il capo. Vabbè dai, ci sentiamo, ciao a tutti, ciao. Ciao, buona serata a tutti. E dai, chiudo pure io che adesso mi metto a letto domani mattina, la sveglia suona presto per me. Alla prossima, ciao Danilo, alla prossima dai, buona serata. Ciao ragazzi, alla prossima, è stato un piacere collegarvi, alla prossima. Eia, ciao ciao, cerca di comprarti in qualcosa, dai. 3747, vedrai che arrivi molto molto meglio. Ciao Dani. Certo, certo, adesso piano piano migliorerò. Grazie per il consiglio. Io faccio proprio fatica, amico, mi devo concentrare per ascoltarti. Se no non riesco a tirarti fuori. Segnale 7. 5-7, però la radio è molto bassa da me. Gianni è più, diciamo, più positivo per Porto Torres, lui è in alto, ce l'ha proprio davanti, ecco perché ti ascolta meglio. Va bene, dai, alla prossima Dani, cerca di migliorare, comunque siamo sempre qua, quasi sempre, dai, ciao. Certo, alla prossima, buona serata ragazzi.